Libro quinto della Repubblica di Platone. Concluderò dunque dicendo che una città così costituita è buona ed è perfetta, in pari modo l'individuo fornito di caratteristiche simili. Le altre città invece, seppur questa è perfetta, sono forme deficienti ed errate a considerarne le politiche costituzioni, come pure per chi consideri lo svolgimento del carattere nell'anima individuale. E queste forme di malvagità si raccolgono in quadruplice aspetto. Quale? Chiedeva. E io m'accingevo ad spiegare queste forme peggiori, nell'ordine secondo cui l'una dall'altra procedano. Florimarco, invece, che se ne stava seduto un poco più lontano di Adeimanto, tese una mano, prese in alto vicino alla spalla il mantello dell'amico, lo attirò a sé e piegandosi un po' gli disse qualche cosa. Lo si vedeva curvo davanti all'altro. Non mi fu possibile udire ciò che gli disse, soltanto queste parole. E allora lo lasceremo continuare? Cosa si dovrà fare? Eh no, assolutamente, rispondeva Adeimanto, parlando ormai a voce alta. E io, cos'è che non volete lasciar continuare? Te, rispose lui. Per quale motivo continuai proprio io? Mi pare te la pigli troppo comoda. Ci rubi tutta intera una parte della discussione, non la meno importante. Di essa non vuoi trattare. E credi che non ci siamo accorti di quell'accenno che hai fatto così fugacemente? Hai detto, è cosa manifesta che fra amici sia comune il possesso delle donne e dei bimbi. E non andava bene, dissi, Adeimanto? Sì, rispose lui, ma questo bene, come per gli altri argomenti, richiede necessariamente un po' di discorso. È necessario determinare le caratteristiche di questa comunanza. Ci sono tanti tipi di comunanza. In conclusione, non tralasciare di mostrarci come tu intendi la cosa. Da un pezzo, vedi, noi attendiamo, nella persuasione che in qualche modo avresti fatto un preciso accenno sulla generazione dei figli. Si volevano sapere le norme in proposito. Anche, una volta nati, come si dovranno educare? Insomma, vedere un po' di chiaro in questa comunanza di spose e di figli della quale stai parlando. È nostra convinzione, in realtà, che non piccole siano le conseguenze. Anzi, forse, nella costituzione della città, tutto dipende dal fatto che il precetto venga applicato per retta oppure per falsa via. Ora, invece, ti volgi a delineare un altro tipo di costituzione e non hai trattato ancora a sufficienza su questo problema. Abbiamo quindi deciso quanto hai udito, cioè che non ti vogliamo lasciare andare avanti prima che tu non abbia trattato a fondo, come le altre, anche questa particolare questione. Oh, io pure, aggiungeva Glaucone, sono pronto a dare il mio voto favorevole. Ma non si discute, incalzava Trasimaco. Sta pur sicuro, Socrate, questa è anche l'opinione di noi tutti. E io allora? Cosa vi siete pensati di fare, ora che mi avete interrotto? Che razza di discussione sull'ordinamento dello Stato mi andate tirando fuori, proprio come se si fosse alle prime parole? E dire che ero tutto contento, credevo d'aver proprio finito il mio compito. Tutto contento perché, omessa tale questione, sarebbero state accolte le conclusioni che prima si dissero. Non sapete quale sciame di discorsi voi destate. Avevo visto benissimo prima e avevo tralasciato di discuterne per evitare non piccola molestia. Ma senti un po', disse Trasimaco, cosa credi? Siamo forse venuti qui per colare oro e non per udire discorsi filosofici? Sì, continuai, ma non discorsi esageratamente lunghi. E Glaucone, caro Socrate, chi capisce le cose per tutta la vita vorrebbe ascoltarli questi discorsi. Ecco la misura della loro lunghezza. In ogni caso, non ti preoccupar troppo di noi, ed esponi senz'altro tutta la tua opinione su quello che ti stiamo chiedendo. Di quale tipo è, dunque, questa comunanza di figli e di spose per i nostri custodi? E poi, c'è anche l'allevamento dei figli, quando sono ancora in tenera età, nel periodo cioè tra la nascita e gli anni in cui vanno a scuola, il periodo più difficile per le continue cure e la necessaria assistenza. Cerca, insomma, di esporre in qual modo si possa portare assistenza e cura a questi figli. Dissi, non è mica una cosa facile, beato amico mio. L'argomento presenta, assai più del precedente, moltissimi motivi che portano a dubitare e a non credere. Il primo dubbio comincerà intanto sulla possibilità della cosa e, ammesso anche che sia possibile, comincia a sorgere il dubbio circa l'utilità. Per questi motivi sono molto incerto se convenga affrontare questo argomento, perché, amico mio caro, quanto dirò sarà forse giudicato un puro sogno. Ma non devi aver tante esitazioni, disse lui. Chi ti starà a udire non è sciocco né incredulo, né tardo a intendere. E io continuai. Mio caro, forse perché desideri farmi coraggio mi parli così? Certo, rispondeva. E allora dissi, ottieni l'effetto contrario. Andrebbero bene, vedi, le tue parole di incoraggiamento, se fossi convinto con me stesso che gli argomenti di cui devo trattare sono per me del tutto noti. Effettivamente, Glaucone, non desta preoccupazione e dà anzi un senso di fiducia parlare quando si sa di argomenti importanti che ci stanno a cuore, in mezzo a persone intelligenti e amiche. Al contrario, mettersi a discutere, avendo la convinzione di non saper l'argomento e dovendone esperire contemporanea ricerca, appunto quello che faccio io, è impresa non poco perigliosa e malsicura. Oh, non temo già ad apparire ridicolo, sarebbe un timore puerile. Temo che, ingannandomi sulla verità, finisca per trovarmi a terra, e non solo io, ma anche i miei amici, trascinati con me, e a proposito poi d'argomenti sui quali non si dovrebbe ammettere l'errore. Supplico dunque Adrastea, o Glaucone, oh, non mi punisca la dea per ciò che sono sul punto di dire. Ritengo delitto meno grave uccidere involontariamente qualcuno che non ingannare sul bello, sul buono, sul giusto di una costituzione politica. In ogni caso, se si deve affrontare quest'alea, sarebbe meglio affrontarla in mezzo a persone nemiche, assai più che tra amici. Insomma, non fai bene a insistere. E Glaucone sorrise, quindi, ma, caro Socrate, rispondeva, ammesso il caso che per tuo discorso qualche dissonanza sorga in noi, ebbene, ti assolveremo dall'accusa quasi d'omicidio e sarai senza macchia, così pure dall'accusa d'averci tratto in inganno. Insomma, fatti pur coraggio e parla. Anche in tribunale rimane senza macchia chi è assolto dalla colpa d'omicidio, così la legge. È quindi probabile che, come avviene in quel caso, avvenga anche per questo mio involontario inganno. E via, parla se è per questo. Allora, conclusi, bisogna riprendere di nuovo ciò che sarebbe stato forse più conveniente dir prima, e forse va bene così. Abbiamo finito di porre sulla scena gli attori di ruolo maschile, ora tocca alle donne, tanto più che questo è il tuo vivo desiderio. Penso che uomini nati ed educati nel modo da noi stabilito possano aver mogli e figli e godere della loro presenza soltanto procedendo avanti per quella via per la quale noi stessi li abbiamo fatti procedere. Abbiamo cercato, sai bene, di costituire, per mezzo di parola, questi nostri uomini quali custodi di un gregge. Sì, dobbiamo dunque essere coerenti e attribuire formazione ed educazione che corrisponda alle caratteristiche di quelli. Consideriamo dunque se in genere la cosa vada bene o no. Come? Così. Crediamo che le femmine dei cani da guardia debbano far la guardia allo stesso modo dei maschi? Andar con quelli a caccia? Attendere, insomma, insieme alle altre opere loro? O forse debbono starsene rinchiuse, quasi impari a ciò, per attendere alla generazione e all'allevamento dei cagnolini? E i maschi dovranno invece adempiere a tutte le incombenze più faticose? L'intera responsabilità del gregge dovrà forse gravare sui maschi soltanto? In comune, rispondeva, ogni servizio. Unica eccezione, le femmine sono più deboli, i maschi più forti. Con questo criterio facciamo uso di questi animali. E ti pare allora, chiedevo, che si possa fare il medesimo uso di due animali se non si assegna lo stesso vitto e non si dà la stessa educazione? No, non è possibile. Allora, se ci serviamo delle donne, nella stessa misura dei maschi, bisognerà impartir loro lo stesso insegnamento. Sì, a quelli fu dato un insegnamento mosaico e ginnico. Sì, allora, anche alle donne bisognerà concedere l'insegnamento di queste due discipline, e così pure insegnare l'arte della guerra, e farne uso in parità di criteri. Da quanto esponi, par naturale conseguenza, rispondeva. Indubbiamente, continuai. Talune di queste affermazioni vanno contro le comuni abitudini e talune non mancheranno di destare il riso, praticate nel modo che stiamo esponendo. Purtroppo, rispose. E quale aspetto, dissi, ne scorgi, che muova particolarmente il riso? Senza dubbio il fatto che donne ignude dovranno esercitarsi nelle palestre insieme ad uomini, e non solo le giovani, ma anche donne avanzate negli anni, come fanno gli uomini anziani nei ginnasi, rugosi e sgraditi alla vista, continuano a praticare gli esercizi. Già, rispondeva, è proprio una cosa che sarebbe da ridere, nelle attuali condizioni almeno. Dunque, continuai, ormai che abbiamo iniziato a parlare, non dovremo aver paura delle canzonature di tanta brava gente. Quante non ne diranno e quanto pungenti per un simile cambiamento nelle tradizionali costumanze dei ginnasi e delle scuole, in modo particolare per il maneggio poi delle armi e per l'equitazione. Non hai torto, rispondeva. In ogni modo abbiamo cominciato e andiamo avanti per questa via. Oh, è ben scabroso questo aspetto della Costituzione, e vorremmo rivolgere preghiera a costoro di non continuare con queste critiche, ma di riflettere con obiettività sul problema. E a questi signori rinfrescheremo anzi la memoria, osservando che non sono trascorsi molti secoli da quando ai greci, come del resto oggi per lo più ai barbari, sembrava uno spettacolo indecoroso e ridicolo vedere gli uomini ignudi. In ogni modo, quando cretesi e spartani dettero inizio agli esercizi a corpo nudo, le brave persone di quei tempi avranno avuto occasione per fare oggetto di frizzi d'ogni genere la nuova costumanza, non credi? Oh, sì. Poi, così credo, si comprese che in pratica era molto meglio essere ignudi piuttosto che nascondere gelosamente le proprie membra. Svanì quindi l'apparenza ridicola del fatto, in quanto la ragione indicava una soluzione migliore del problema. Si vide insomma che è sciocco chiunque ritiene che una cosa diversa dal male sia degna di riso, sciocco chi vuol destare ilarità valendosi di qualche aspetto del ridicolo, a prescindere dalla stupidità e dalla malvagità, e si trova in uguale condizione chi cerca di trattare con serietà qualche cosa, proponendosi meta diversa dal bene. Perfettamente, concluse. Allora su questo problema dobbiamo, per prima cosa, mettere in chiaro se il fatto è possibile o no, e tutti questi dubbi li riserveremo a chi si diverte di starsene incerto, si diletti poi a scherzare o anche agisca sul serio. La natura umana, nel sesso femminile, è forse capace di farsi compagna ai maschi in ogni operazione, in nessuna operazione, o forse può farlo per talune fatiche, per altre no? In quale di queste categorie rientra il servizio di guerra? Non è forse vero che con questo criterio si potrà sperare di arrivare bene alla conclusione? Oh, si capisce, rispondeva. E non ti piacerebbe, dissi, che così tra noi avanzassimo i dubbi stessi dei nostri oppositori? Così le posizioni del discorso avversario non saranno assaltate senza che nessuno le difenda. Nulla impedisce. E via allora. Cominciamo mettendoci al loro posto. Diranno: Socrate e Glaucone carissimi, non c'è bisogno che si proponga obiezione. Siete stati proprio voi ad ammettere in principio che la città vostra, da voi fondata, doveva necessariamente acconsentire a ciascun singolo di fare secondo natura il proprio compito e quello soltanto. Certo, l'abbiamo ammesso, come no? E si può sostenere che non sia grande la differenza naturale tra un uomo e una donna? Come vuoi che non differisca? E non conviene forse imporre all'uno e all'altro una diversa attività secondo la propria natura di ciascuno? Sì, ma... E non commettete forse errore in questo momento? Obietteranno certo che è evidente la contraddizione. Voi sostenete, diranno, che uomini e donne debbano avere le medesime incombenze, essi che pure hanno così profondamente distinta la natura. E tu, mio grande amico, cosa potrai addurre in difesa? Al momento rispondeva: non mi par cosa facile, bensì ti rivolgerei una preghiera, come appunto la rivolgo, di voler delineare anche i tratti della risposta in nostra difesa. Sono queste precisamente le obiezioni, riprese Glaucone, e altre molte del genere, che avevo già da tempo previste, onde il mio timore e il mio dubbio di trattare la legge sul possesso di spose e di figli e sulla loro educazione. Certo, non pare una cosa facile. Eh no, continuai. In ogni caso, sia che si cada in un'angusta piscina, sia in mezzo a un mare grandissimo, nulla meno, è necessario nuotare. Certamente. Per cui dobbiamo nuotare e cercare d'uscire da questo pericolo di fronte al quale parola ci ha condotti, e potremo sperare che qualche delfino forse ci prenda, o qualche inatteso mezzo ci dia salvezza. Evidente, rispondeva. Su via, dissi, vediamo se ci riesce di trovare il cammino per uscir fuori. Siamo d'accordo che una diversa natura ha compiti pure diversi, e la donna, ci si dice, è di natura diversa da quella dell'uomo, ed è nostra tesi invece che tali nature diverse debbano attendere ad eguali occupazioni. Non è questa l'accusa che ci si fa? Senza dubbio. Oh, è davvero strano il potere dell'arte con cui sottilmente si contraddice. Perché? Perché, continuai, mi fa l'effetto che molti involontariamente si lascino prendere. Costoro pur credono di discutere filosoficamente, d'essere dialettici, insomma, e invece da veri eristici sottilmente litigano e capziosamente, il che avviene perché non sanno dividere l'argomento secondo la specie. Cercano di perseguire la contraddizione di ciò che è stato detto secondo il significato singolo del nome, e ne risulta un litigio, non una discussione dialettica. Già, è vero, è una cosa che accade per molti, ma credi davvero che si tratti del caso nostro? Di certo, gli dissi, senza volere siamo creduti in una questione di parole. Come? Con tanto accanimento da veri eristici affermiamo, secondo la significazione singola del nome, che a una natura diversa da un'altra non si debbano attribuire le medesime occupazioni di questa. E intanto non abbiamo messo in luce per nessun modo di quale specie sia questa eguaglianza e questa diversità di natura, e quale fosse il nostro scopo, quando abbiamo attribuito altre occupazioni a nature diverse ed eguali occupazioni a nature eguali. Già è vero, rispose, non abbiamo fatto opportuna indagine. Ammesso questo sistema, continuai, è pur concesso di discutere se sia medesima la natura degli uomini calvi e di quelli che hanno i capelli, oppure se si tratti di contrarie nature, e, una volta ammesso che le due nature sono contrarie, se i calvi facessero i calzolai, non dar licenza agli uomini che hanno i capelli di far lo stesso mestiere, e viceversa per il caso contrario. Oh, sarebbe una cosa da ridere! E da ridere, continuai io, per questo motivo soltanto, che in quell'occasione non si voleva stabilire per via assoluta il concetto di natura uguale o diversa, bensì intendevamo limitarci soltanto a quella specie di diversità o di identità che è in rapporto precisamente con le occupazioni della vita. Come diciamo di solito che due uomini, che hanno ciascuno un'anima disposta alla medicina, hanno per esempio la stessa natura. Non lo credi? Io sì. Un medico e un falegname, invece, è natura diversa, certamente. Per conseguenza, dissi, nel caso che anche le donne e gli uomini ci si mostrano dissimili rispetto alle possibilità di attendere a qualche arte, affermeremo senz'altro che questa arte non potrà venire assegnata se non all'uno o all'altro dei due. Ma qualora invece la differenza ci si manifesti nel fatto che la donna partorisce, il maschio invece procede alla fecondazione, non perciò sarà dimostrato che la donna differisca dall'uomo in rapporto a ciò di cui ora stiamo parlando. E saremo invece convinti sempre che i nostri custodi e le loro donne debbano attendere alle medesime occupazioni. Sì, e va bene, rispondeva. E dovremo successivamente invitare il nostro avversario a mostrarci con prova precisa rispetto a quale arte o a quale funzione organizzativa dello Stato la natura femminile e quella maschile non siano uguali ma diverse. Ma certo, sarebbe giusto. Forse allora, come dicevi poco fa, mi si farebbe osservare che non è facile trovar su due piedi una risposta. Per chi medita un po', non è invece difficile? Già, si direbbe. E se rivolgessimo preghiera a chi ci fa queste obiezioni, perché ci vengano dietro, e vedere se riuscissimo a dimostrargli che non v'è nessuna attività riservata unicamente alla donna nell'amministrazione di una città? Senza dubbio. Su via, dunque, gli diremo, rispondi. Non affermi che un tale ha buone disposizioni a differenza d'un altro per il fatto che l'uno apprende con facilità, l'altro invece no? E l'uno con poca applicazione da solo compie progressi, l'altro invece, pur avendo tanto studiato e pur avendo speso tante fatiche, neppure è capace di ritenere le cognizioni apprese. E al primo le stesse condizioni dell'organismo cospirano con lo sforzo dell'intelligenza, per l'altro invece si risolvono in tanti ostacoli. Non sono questi i criteri coi quali si può definire e caratterizzare chi è bene e chi è mal disposto per qualche cosa? Certo, disse lui, nessuno affermerà il contrario. E conosci qualche operazione nella quale, per tutti questi motivi, i maschi non si trovino privilegiati rispetto alle donne? E lasciamo stare, per non farla lunga, l'arte della tessitura, del far dolci, della cucina. Qui le donne sono veramente qualche cosa, e in questo campo fa persino ridere il fatto che pur riescono inferiori. Hai ragione, rispondeva, il sesso maschile in tutto, per così dire, supera e di gran lunga l'altro sesso. Vi sono certo donne superiori in molte cose a molti uomini. In generale, tuttavia, le cose stanno come tu dici. Allora, mio caro, non c'è nessuna attività tra quelle che provvedono al governo d'uno Stato riservata unicamente alla donna in quanto donna, all'uomo in quanto uomo. Al contrario, le facoltà migliori sono disseminate nei due sessi, e a tutti questi uffici, per sua natura, la donna può partecipare, e a tutti pure l'uomo, soltanto la donna in confronto all'uomo è più debole. Certo, sì, e dovremmo allora affidare ogni incarico all'uomo, nessuno alla donna? E come mai? Ma vi saranno, credo, così dovremmo dire, donne adatte alla medicina, altre no, una adatta alla musica, un'altra senza disposizioni. Sì, e allora? Allora l'una non amerà forse la ginnastica e non sarà forse guerriera? Un'altra avversa alla guerra e agli esercizi fisici. Hai ragione. E senti un po', ve ne saranno per natura amanti di filosofia e altre di natura contraria, e l'una piena d'impeto, l'altra inerte e debole. Anche questo. E v'è pure dunque la donna capace di adempiere all'ufficio di custode, e un'altra invece no. E non abbiamo scelto in base a questa disposizione naturale anche tra i maschi quelli adatti per la classe dei custodi? In base a simile disposizione, certo. Insomma, la natura della donna e dell'uomo è la medesima, se si considera l'ufficio di custodire la città. Unica differenza, l'una è più debole per certi aspetti, l'altra più forte. Chiaro. Si dovranno quindi scegliere donne dotate di queste qualità perché possano trascorrere l'esistenza insieme con uomini dotati di queste qualità stesse, perché esercitino insieme l'ufficio di custodi, donne insomma adatte a tale ufficio e simili a quegli uomini per naturale disposizione. Sì, certo, e non si dovranno attribuire a uguali nature, uguali occupazioni? Uguali. Siamo giunti dunque con un giro completo alle precedenti affermazioni e stiamo concludendo che non è contrario alle leggi di natura attribuire alle spose dei custodi attività musaiche e attività ginniche, senza dubbio. E allora la nostra legislazione non sancisce certo cose impossibili e non è neppure una legislazione utopistica. Al contrario, noi stabiliamo le nostre leggi secondo natura. Anzi, pare evidente, le costumanze odierne sono assai più contrarie alla natura. Evidente. E non è forse vero che si trattava di vedere se le nostre proposte erano possibili e veramente utili? Sì, erano queste. E che siano possibili, abbiamo concluso affermativamente. Sì. Poi, continuando, se davvero utili, si dovrà successivamente dimostrare. Si capisce. E non dobbiamo forse ammettere che per formare una donna alla condizione di custode non sarà necessaria un'educazione particolare, una per le donne e una per gli uomini, tanto più poi che si tratta di una medesima natura, non diversa. E qual è la tua opinione su quanto segue? Che cosa? Il tuo giudizio personale sugli uomini. Certo, v'è un uomo di natura migliore e un altro peggiore, o forse ritieni gli uomini tutti uguali? In nessun modo. Allora, nella città da noi fondata, credi che risultino i migliori i custodi su cui è stata esperita quella forma d'educazione, oppure i calzolai educati nella loro arte soltanto? Oh, rispondeva, ridicola domanda la tua. Capisco, dissi, e senti, non sono costoro i migliori fra tutti i cittadini? Sì, certo, ma ancora, tra le altre donne, non saranno queste le migliori? Anche questo è vero, rispondeva. E qual è la condizione preferibile per uno Stato? Che vi siano uomini e donne perfetti in grado sommo, non è vero? È la condizione migliore, sì. E questo risultato sarà opera di mosaiche istituzioni culturali e scolastiche, così pure di ginniche istituzioni, una volta che vengano adibite secondo i nostri criteri. Come no? In conclusione, non soltanto una istituzione possibile, ma anche sommamente utile allo Stato. Così. Le spose dei custodi dovranno dunque spogliarsi delle vesti, rivestiranno invece di vesti la virtù, dovranno aver parte comune nella guerra e in genere in tutte le mansioni di custodia, nessuna diversità di incombenze, soltanto gli incarichi più leggeri saranno affidati preferibilmente alle donne, non agli uomini, tenendo conto di una loro debolezza maggiore. E l'uomo che sghignazza per le donne ignude, esercitantisi per uno scopo sublime, coglie vano frutto di sua ridicola sapienza, non sa affatto, è naturale, né il motivo delle risate, né la ragione della condotta. In conclusione, si continua a ripetere e si tornerà a ripetere in avvenire, con ottima ragione, che l'utile è bello, brutto ciò che nuoce, senza dubbio. Ecco dunque, possiamo dire di essere sfuggiti da questa prima ondata. Era ben difficile trattare di questo corale cantato da donne. L'ondata in ogni caso non ci ha interamente sommersi, pur essendo nostra affermazione che comune dovesse risultare il tenore di vita per uomini e per donne nell'eguale professione di custodi. Anzi, in certo qual modo, parola poté con se stessa convenire che le sue sono disposizioni possibili e utili. Oh, davvero, rispondeva, tu sei sfuggito a non piccola ondata. Ma affermerai certo, soggiunsi, che non è una gran cosa quando avrai visto quanto segue. Parla allora e lasciami vedere, concluse. E cominciai. A questa prima e alle altre precedenti tieni dietro, credo, la seguente legge. Quale? Che queste donne, spose di tutti questi uomini, tutte debbano essere comuni. Nessuna con nessuno deve avere particolare convivenza, così anche i figli saranno comuni, e il genitore non deve conoscere la propria prole, né d'altra parte la prole il genitore. Certo, rispondeva, questo punto è molto più suscettivo di lasciare incredulo l'ascoltatore, sia per la sua possibilità, sia per la sua utilità. Non credo, ripresi, che si potrà dubitare sull'utilità di questo provvedimento. Certo, è il bene più grande che le donne siano comuni e comuni i bimbi. Basterà che la cosa sia possibile. Sono certo invece che su questo punto, se la cosa cioè sia possibile o no, potranno sorgere moltissimi dubbi. Su tutti i due punti, disse lui, si potranno far grandi riserve. Tu preannunci, dissi, una coalizione d'argomenti. E io che credevo di poter sfuggire alle difficoltà almeno della prima argomentazione, se tu fossi arrivato a convincerti che la cosa è utile, Pensavo che mi sarebbe rimasta soltanto discussione su possibilità o meno. Mi sono ben accorto che tentavi di sfuggire, disse lui. Devi invece dare spiegazione dell'una e dell'altra cosa. Conviene allora accettare la sentenza. Un solo favore ti domando. Concedimi un momento di tregua. Gli uomini di intelligenza indolente e pigra si divertono a pascersi tutti dei loro pensieri quando vanno camminando da soli. Costoro, come sai, non pensano affatto se quei desideri siano possibili o no e lasciano andare ogni ricerca perché non vogliono far fatica a decidere se quel certo disegno sia o non sia effettuabile. Senz'altro presuppongono che quanti desiderano sia davvero esistente. Allora accomodano e dispongono ogni particolare. Eccoli, tutti lieti che determinano quale sarà la loro condotta, come se quel disegno fosse compiuta realtà. E con questo rendono più pronunciata e più viva la naturale inclinazione all'inerzia. Questo stesso molle sentimento c'è ora in me, e in quanto al primo problema sulla possibilità o meno della cosa, desidero rimandarne al futuro la ricerca. Oh, sarà anche allora efficace. Per il momento svolgerò l'indagine, presupponendone senz'altro la possibilità. Naturalmente, qualora tu voglia darmene il permesso. Cercherò così di vedere come i capi ordineranno questa condizione di cose in quanto essa realmente avvenga, e in tal modo farò vedere quanto suscettiva di immenso utile, se praticata, per la città e per i suoi custodi. Questo mi proverò a mettere in chiaro, prima, insieme con te, in un secondo momento, l'altro problema, se me ne dai il permesso. Ma te lo concedo, rispose, così fa pure la tua indagine. Io credo dunque, cominciai, che se davvero i governanti saranno degni di questo nome, e così pure i soldati che da quelli dipendono, gli uni certo vorranno eseguire gli ordini dati, gli altri invece saranno pronti a dare questi ordini, in parte ossequienti essi stessi allo spirito delle leggi, in parte anche imitandole, seguendone lo spirito, per quello che ci si affida alla personale iniziativa. Naturalmente, rispondeva. In conclusione tu, legislatore, a quella guisa che pure hai scelto gli uomini, così anche sceglierai le donne e le assegnerai a compiere quella funzione di magistrato e di soldato, quanto più è possibile avvicinando le medesime nature. Questi uomini e queste donne, siccome hanno in comune i domicili e le mense, siccome personalmente nulla nessuno possiede, saranno perciò sempre insieme, e insieme svolgendosi questa comune esistenza nei ginnasi e in ogni occupazione, necessariamente, credo, per innata condizione, saranno condotti a unirsi l'uno con l'altro. Non ti pare conseguenza necessaria? Certo, e non necessaria conseguenza per geometrica necessità, ma per necessità d'amore, e questa non v'è dubbio, più rude e più acre in persuadere e in attrarre le folle. Ma certo, continuai, ciò ammesso, Glaucone, i capi non concederanno mai, né del resto sarà mai ritenuto conforme a religione che in una città d'uomini felici i cittadini disordinatamente si congiungano o disordinatamente si comportino in qualsiasi altra operazione. Già, non sarebbe giusto, rispondeva. E allora è chiaro, porremo le nozze il più possibile sotto l'usbergo della religione e saranno considerate sante le nozze più vantaggiose alla città, certamente. E in qual modo allora diventeranno vantaggiose? Devi rispondere alla seguente domanda, o Glaucone. Vedo infatti nella tua casa cani da caccia e numerosi uccelli pregiati. Non hai mai badato alle loro nozze e alla generazione dei figli? A che cosa? In primo luogo, pur essendo tutti di ottima razza, non t'accorgi che soltanto taluni sono e si dimostrano perfetti? Sì, taluni soltanto. E provvedi all'accoppiamento di tutti indistintamente, o invece fai in modo che la cosa avvenga soltanto per i migliori? Per i migliori. E senti, per i giovanissimi e per i vecchi, o invece per quanti sono nel fiore dell'età? Per quanti nel fiore dell'età? E se alla generazione non si provvede con questi criteri, ritieni che la razza dei tuoi uccelli e dei tuoi cani sarà di gran lunga resa peggiore? Oh, sì. E qual è, dissi, la tua opinione sui cavalli e gli altri animali? È forse diversa la condizione? Sarebbe una strana cosa, rispose lui. E non lo vedi, mio buon amico? Allora abbiamo bisogno di governanti abili e perfetti, se lo stesso fatto si verifica anche per il genere umano. È proprio così, effettivamente, rispondeva. Ma perché questo? Sarà necessario far uso di molte medicine. Sai bene, si riteneva sufficiente un medico, anche non tanto bravo, per curare un paziente che non avesse bisogno di medicine, ma fosse pronto a seguire un regime determinato di vita. Quando invece si deve ricorrere a prescrizioni singole di medicamenti, sappiamo allora che occorre un medico più valoroso. Vero, ma perché tutto questo? Per la seguente ragione, risposi. I capi della città dovranno far uso di menzogna frequente e d'inganno a vantaggio dei loro sudditi. Si diceva, se ricordi, che menzogna e inganno dovranno essere considerati utili alla stessa guisa delle medicine. Sì, e va bene, rispondeva. Questo criterio, che sembra a noi così giusto, deve essere applicato in preferenza a proposito di nozze e per la procreazione dei figli. Come mai? È necessario, date le nostre conclusioni, che gli uomini più eletti si trovino insieme con le donne più elette, quanto più sovente è possibile. Gli uomini invece da poco con le donne meno elette, in rapporto contrario. E così la prole dei primi dovrà essere allevata, quella degli altri no, seppure il gregge deve essere di qualità, quanto più eccellente è possibile. E di tutte queste disposizioni e del modo con cui si potranno attuare, ognuno dovrà restare completamente ignaro, tranne i capi. A questo prezzo soltanto il gregge dei custodi potrà, per quanto è possibile, restare concorde, senza interne sedizioni. Giustissimo, concludeva. In conseguenza si dovranno stabilire per legge talune feste e quivi raccoglieremo insieme gli sposi e le spose e vi si faranno sacrifici e i nostri poeti dovranno comporre inni adatti alle nozze che si stanno celebrando. Il numero poi dei connubi sarà disposto dai capi con lo scopo che si possa mantenere un numero sempre uguale di cittadini. Si dovrà tener conto di guerre, di malattie e d'altre simili sciagure in modo che la nostra città non diventi, per quanto è possibile, né grande né piccola. Giusto, rispondeva. Saranno quindi opportuni accorti sorteggi, in modo che le persone di merito inferiore ogni volta accusino per ciascun accoppiamento il caso, non i magistrati. Ma certo, e ai giovani valorosi in guerra o in altra occasione, si devono concedere onori, premi e soprattutto facile colloquio con le donne. In tal modo, per tale pretesto, questi padri semineranno figli nel numero più grande possibile. Giusto. E così i fanciulli che via via vengono alla luce saranno raccolti dalle magistrature di ciò incaricate, composti d'uomini oppure di donne, o anche magistrature miste. Sai bene che gli uffici in generale sono comune a uomini e a donne. Sì, e i figli dei valorosi saranno presi da questi magistrati, che li porteranno in un particolare recinto presso nutrici, dimoranti in separata sede in una certa parte della città. Invece la prole dei meno bravi, e se qualche deforme nascesse anche dai primi, sarà portata in luogo nascosto, segreto, come conviene, già, dato che illesa dovrà rimanere la semente dei custodi. E così questi magistrati provvederanno al sostentamento dei neonati, condurranno per esempio al recinto le madri, quando il latte ne gonfia il seno, facendo in ogni modo perché nessuna s'accorga quale sia il proprio figlio, così pure procureranno altre donne in grado di dare il latte, nel caso che quelle non siano sufficienti. Faranno poi attenzione perché queste madri diano il latte ai pargoli per un giusto periodo di tempo, affidando la cura della veglia e le altre fatiche a infermiere e ad altre donne. Tu concedi, rispondeva, a queste puerpere spose di custodi una vita facile e comoda. Va benissimo, gli dissi, passiamo alle successive disposizioni. Si affermava appunto che i figli debbono a preferenza essere procreati nell'età del fiore, vero? E non sei d'accordo che il tempo del fiore per la donna abbia una durata di 20 anni, per gli uomini 30? Quali precisamente? Mi domandava. Per la donna, dissi, cominciando dai 20 anni e giungendo ai 40, è il tempo questo di procreare per la città. L'uomo invece deve lasciar trascorrere della corsa il momento più acuto e d'allora in poi continuare a generare per lo Stato fino a 55 anni. Eh già, rispondeva, è proprio il periodo più opportuno per l'uno e per l'altro sesso, sia come di condizioni organiche, sia come sviluppo spirituale. Allora, se uno più vecchio, o anche uno d'età più giovane, s'accingesse a generare per la comunità, affermeremo che il suo è un errore contrario a religione, contrario a giustizia. Si dirà che quell'uomo semina alla patria un figlio, il quale, anche ammesso il caso che il padre arrivi a tener celata la cosa, non sarà certo generato sotto la protezione di sacrifici e di preghiere. In realtà, alle singole nozze ci saranno sacerdoti e sacerdotesse che innalzeranno preghiere, con loro l'intera città, perché da valorosi, più valorosi, e da cittadini alla patria utili, ancora più utili cittadini possano nascere. Invece, il frutto di quest'amore nascerà in tenebra, per colpevole incontinenza. Benissimo, rispondeva. Una medesima legge, continuai, ci sarà quando un uomo, in età di generare, senza che un magistrato presieda all'unione, s'avvicini a donne, in età pure opportuna. Affermeremo che gli offre alla patria una prole spuria, non legittima e non consacrata. Giustissimo. E quando poi donne e uomini abbiano trascorso l'età giusta, li lasceremo liberi di stare con chi più piace. Si dovranno evitare soltanto per gli uomini la figlia e la madre, le figlie delle figlie e la parentela della madre in linea ascendente. Reciprocamente, Le donne dovranno fare eccezione per il figlio, per il padre e per i consanguinei in linea ascendente e discendente. Consiglieremo di tener presenti queste limitazioni, ma soprattutto di non generare mai, nel caso poi che per forza di circostanze questo inconveniente dovesse avvenire, dovranno esporre il neonato, perché non si concede, di allevare un tal bimbo. Anche queste prescrizioni sono tutte ben ragionate, ma come si potranno stabilire i padri e le figlie e in genere i gradi di parentela di cui ora dicevi? Nessun particolare precetto, dissi. Dal giorno in cui ciascuno diventi sposo di una qualche donna, tutte le creature che nascono, fra il decimo e il settimo mese egli dovrà chiamare se maschi figli, se femmine figlie, e alla loro volta tutti dovranno chiamarlo padre, e così i loro discendenti saranno per lui figli dei suoi figli, e questi li avranno in conto di nonni e di nonne. Parimenti, quanti sono venuti alla luce in quel tempo nel quale i singoli padri li concepivano, si dovranno considerare fratelli e sorelle, e dovranno astenersi, dicevamo appunto, dall'avere rapporti l'un con l'altro. La legge, invece, potrà concedere che fratelli e sorelle insieme convivano, qualora la sorte così decida e la pizia acconsenta. Benissimo, disse lui. Eccoti comunanza di donne e di figli, o Glaucone, praticata per tal modo dai custodi della città. Parola deve ora dimostrare quanto l'istituzione armonizzi con gli altri ordinamenti della città e quanto sia ottima, come ti pare? Benissimo, disse lui. E non è questo il principio secondo il quale ci metteremo d'accordo? Ci domanderemo quale sia il bene più grande che possiamo proporre quando si stabilisce in una città la legislazione. D'altra parte, ci chiederemo pure quale sia il male più grande. Ciò posto, dobbiamo considerare se quanto abbiamo stabilito cospiri con questo ideale di bene o non cospiri invece con il male. Non c'è dubbio, così, rispondeva. Possiamo avere per la città un male più grande di quello che la spezza e ne fa molte invece di una? O, d'altra parte, un bene migliore e più grande di quello che insieme la lega ne forma un'unica città? Non ne abbiamo. E non è forse vero che la comunanza di piacere e di dolore lega insieme, quando tutti i cittadini in modo uguale si rallegrano e soffrono per le medesime gioie e per le medesime sventure? Oh, non c'è dubbio, rispondeva. Invece il far parte per se stesso in simili esperienze è causa di dissoluzione, il che avviene quando, per uguali vicende dello Stato e dei suoi cittadini, gli uni soffrano e si rattristino, gli altri s'allietino ed esultino. Come no? E non è forse vero che questo inconveniente proviene dal fatto che nella città non si pronunciano con uguale significazione le frasi «è mio», «non è mio»? E la medesima cosa vale per il possesso altrui, non v'è dubbio alcuno. E il governo è perfetto in quella città dove moltissime persone, nello stesso senso e nello stesso rapporto, dicono questa frase «è mio, non è mio». Certo, sì. E così pure è perfetta quella città che più si avvicina a condizione di un unico individuo. Per esempio, qualcuno di noi riceve una percossa in un dito, la comunità intera, quella che assurge all'anima attraverso il corpo, tutta protesa per realizzare un unico ordine di elementi diverse, ebbene, tutta questa comunità ha una sensazione di questa percossa, e tutta prova impressione di dolore, essa intera, pure una sola parte essendo travagliata. Per tal modo affermiamo che l'uomo sente dolore al dito, lo stesso vale per qualsiasi altra parte del corpo umano, quando cioè una parte subisce dolorosa impressione, oppure nel piacere, quando un'altra trova più facile condizione d'esistenza. La medesima cosa, sì, rispondeva. Effettivamente, come mi domandi, una città ottimamente governata si trova in condizione molto simile a quella di un tale individuo. E quando un cittadino incontra sorte, o buona o cattiva, una città di questo genere dirà davvero che sua propria esperienza è codesta, e tutta intera insieme esulterà, o insieme proverà dolore. È inevitabile conseguenza, rispondeva, una città ben governata, almeno. Sarebbe il momento, ripresi, di ritornare alla nostra città e controllare con questo mezzo le conclusioni della nostra parola, vedere cioè se queste caratteristiche siano per modo eminenti in essa oppure se in qualche altra si potrebbero trovare più spiccate. Già, si dovrebbe far così, rispondeva. Senti un poco, naturalmente anche nelle altre città vi sono uomini di governo e popolo, e vi sono pure in questa, vi sono, e tutti l'uno con l'altro si chiameranno col nome di concittadini, come no? Ma oltre che col nome di concittadini, il popolo, nelle costituzioni d'altro genere, con qual nome chiama le personalità del governo? In molte costituzioni, padroni. Negli stati democratici si adopera questo appellativo, appunto, personalità politiche. E come li chiamerà il popolo nella nostra città? Oltre a chiamarli concittadini, come chiamerà questi personaggi? Salvatori e difensori. E loro come chiameranno il popolo? Colui che fornisce stipendio e alimento. E i governanti nelle altre città, Come chiameranno il popolo? Schiavo, rispondeva. E come i governanti si chiameranno reciprocamente? Colleghi. E come i nostri? Tutti custodi, come custode a ciascuno singolarmente. Nelle altre città i magistrati contrattano invece i colleghi, parte come persone familiari, parte come estranei? Sì, e comunemente. E la persona di famiglia sarà considerata come cosa propria, e così se ne parla. L'estraneo invece come cosa che non ci appartiene. Così. E in quale condizione sono i nostri custodi? È possibile che qualcuno dei colleghi sia da lui ritenuto persona estranea? Che in tal senso il custode rivolga parola al collega? Eh no, assolutamente, rispondeva. Chiunque gli incontri potrà sempre pensare che sia un fratello o una sorella, il padre o la madre, un figlio o una figlia, o qualche persona discendente da quelli, o anche qualcuno dei suoi vecchi. Hai proprio ragione, gli dissi, e spiegami piuttosto questa seguente cosa. Stabilirai con le tue leggi solo a parole questa parentela, o vorrai imporre ai tuoi custodi di comportarsi ogni momento in armonia al nome che li distingue? Di fronte, insomma, a tutti questi padri, non si dovranno forse praticare i precetti che la legge in proposito prescrive nelle relazioni coi genitori, rispetto, osservanza, obbedienza agli autori della nostra vita? E chi non li osserva non troverà bene né da parte degli dèi né da parte degli uomini, in quanto la sua condotta non è né giusta né santa. Queste voci, e queste soltanto, giungeranno da ogni parte all'orecchio dei bimbi, tanto se si tratta di coloro che vengono indicati quali padri, quanto di altri parenti. Queste, rispondeva, sarebbe da ridere se nomi di parentela senza corrispondenza di fatti risuonassero soltanto attraverso le labbra. In questa città, dunque, in modo particolarissimo fra tutte, quando a qualche cittadino qualche cosa va bene, tutti emetteranno concordi la voce di cui si diceva: «Oh, le cose mie vanno bene!» Così pure quando vanno male, le cose mie vanno male. È proprio vero, disse lui. E non abbiamo forse detto che con questa voce e con questa persuasione piaceri e dolori sarebbero stati a tutti in comune? Sì, e abbiamo detto bene. I nostri cittadini allora avranno comune consociazione di interessi, che si chiameranno proprio personale interesse. In tale comunanza avranno perciò completa identità di gioia e di dolore. Certo, sì. E non ne sarà forse causa, oltre alla generale costituzione della città, anche la comunanza tra i custodi di donne e di fanciulli? Non c'è dubbio, sì, rispondeva, ma abbiamo ammesso che per lo Stato il bene più grande è quando si può assimilare una città ben governata a un organismo, al modo cioè come l'organismo intero reagisce al dolore e alla gioia di una sua singola parte. Sì, rispondeva, ed era esatta la conclusione. Insomma, la comunanza di donne e di bimbi tra i custodi ci si è rivelata fonte precipua ad un bene per la città. Ma certo, del resto, con ciò non facciamo che andare d'accordo con le precedenti conclusioni. Sai bene, si concluse che non ci deve essere per costoro né casa propria, né terra, né altro possesso. Dovranno bensì ricevere i mezzi di sussistenza dagli altri, e sarà questa la mercede per l'opera di custodi. E questa mercede, se debbono veramente essere custodi, dovranno consumare in comune. Vero, rispondeva. E non è forse vero, come sto dicendo, che tanto questi quanto anche i precetti di prima li rendono veri custodi? E se i custodi li osserveranno, la città certamente non sarà lacerata. E ciò senz'altro avverrebbe quando i custodi non chiamassero mie le stesse cose, ma l'uno una cosa, un altro un'altra, e l'uno trascinasse alla propria casa ciò che gli riesce di possedere separatamente dagli altri, un altro alla propria, che è diversa da quella degli altri tutti, trascinasse spose e figli capaci di infondere in lui gioie e dolori personali e particolari, in quanto spose e figli sono personali e particolari. Al contrario, nella nostra città, un unico criterio intorno a quello che appartiene ai custodi. Tutti allo stesso fine tendono, tutti, per quanto è possibile, suscettivi di provare le stesse gioie e gli stessi dolori. Certamente, concluse. E senti un poco. Processi e reciproche querele andranno certo lontani, per così dire. I nostri custodi non posseggono nulla come propria cosa, se ne eccetto il corpo. Tutto il resto, in comune. Onde proviene che non conosceranno nemmeno interne sedizioni. Tutto ciò che per possesso di denaro, di figli, di congiunti, porta gli uomini a contesa e a discordia. Vera e necessaria conseguenza, sono stati liberati da questo retaggio, rispondeva. Ma nemmeno ci saranno giuste ragioni di processi per violenza e per offese. Stabiliremo intanto come cosa giusta e bella che il custode si difenda di fronte a un suo coetaneo e imporremo quale un dovere l'integrità e la cura della propria persona. Va bene. E questa legge presenta un altro giusto precetto. Se qualcuno dà sfogo alla sua ira in tali condizioni, soddisfacendo il suo impulso, meno facilmente si lascerà trasportare a vie di fatto più gravi, certo, ma si imporrà al più vecchio di esercitare la propria autorità sui più giovani e di punirli, chiaro, e così pure stabiliremo che un giovane, a meno che non gli sia imposto dai magistrati, non dovrà ardire di far violenza a uno più anziano, e tantomeno, come è naturale, di percuoterlo. Del resto, credo, nemmeno gli vorrà fare oltraggio. Avrà due custodi adatti a trattenerlo, timore e rispetto. E il rispetto lo tratterrà dal toccare i propri genitori. Avrà timore poi che gli altri, sia come figli, sia come fratelli, sia come padri, non forse accorrano in aiuto dell'aggredito. Certo, proprio questo è il risultato, esclamò. In ogni senso, dunque, per quanto riguarda le leggi, i cittadini saranno fra loro del tutto in pace. Sì, e pace molta. E siccome nessuna discordia fra loro intercede, non c'è pericolo che gli altri cittadini si levino a sedizione con se stessi o con i custodi. Eh no, e mi sento incerto se sia opportuno enumerare e dire i piccolissimi inconvenienti da cui i custodi sarebbero liberati. Per esempio, i poveri sono costretti a continue adulazioni verso i ricchi, a sollecitudini e ansie d'ogni genere per allevare i figli, per sostentare la famiglia, cercando di guadagnare in tutti i modi. Si tratta allora di prendere a prestito denaro, di negare magari di averlo preso. Si tratta di fare ogni sacrificio per procurarselo questo denaro, che poi deve essere consegnato in mano alle donne e ai domestici per l'amministrazione della casa. Tutte preoccupazioni, mio caro, e casi che capitano, evidenti e pieni di miseria. È inopportuno farne cenno. Ma sì, evidenti, rispondeva, persino a un cieco. Da tutte queste miserie saranno immuni. Vivranno una vita più felice di quella ritenuta pur tanto felice, retaggio per i vincitori dei giochi olimpici. Come? Costoro sono reputati felici per una piccola parte dei beni che invece toccano interi custodi. Oh, questa vittoria è più bella. Figurati, Glaucone, una vittoria che è salvezza di tutta la città. Più completo premio dona la patria. Questi custodi e figli a guisa di corona ricevono l'alimento e a tutte le altre necessità della vita provvede la comunità. Onore particolare, insomma, finché dura la vita. Morti, poi, in dono sepoltura degna del valore. Oh, rispondeva, si tratta di bei premi. Ricorda, dunque, dissi, che poco fa ci fu mosso rimprovero non so da chi. I custodi, si osservò, non li rendiamo felici. Essi, cui sarebbe possibile avere tutti i beni dei concittadini, nulla invece hanno. E abbiamo risposto che, se ci si presentasse occasione, avremmo fatto poi indagine opportuna. Per il momento, si diceva, noi stiamo formando i custodi veramente tali e la città, quant'era possibile, beatissima. Ma in quest'opera non intendevamo creare in lei una sola classe singolarmente felice. Ricordo bene, rispondeva. Senti dunque, la vita dei nostri custodi ci è apparsa di gran lunga più bella e migliore di quella degli olimpici. Potremmo noi confrontarla con la vita dei calzolai, o con quella di qualche altro artigiano, o con quella dei contadini? Non mi pare. Tuttavia, ciò che prima osservai è giusto ripetere pure in questo momento. Se cioè il custode cercherà di acquistare felicità che non più conviene al suo grado, se non più gli potrà bastare una vita così misurata e ferma, e come noi affermiamo vita ottima, se una illogica e infantile opinione si formerà in lui circa la felicità e lo spingerà per quanto può a impossessarsi dei poteri dello Stato, in tal caso dovrà comprendere che veramente aveva ragione Esiodo. Sapiente davvero era questo poeta che diceva, in un certo senso, più vale la metà che non il tutto. Se vorrà seguire, rispondeva il mio consiglio, rimarrà contento a questo genere di vita. Allora concedi senz'altro, ripresi, che l'eguaglianza delle donne con gli uomini, quella di cui ora abbiamo fatto esposizione, e cioè la comunanza della loro educazione, la comunanza dei figli, la comunanza dei doveri per la custodia e gli altri concittadini, queste donne che, sia restando in città, sia andando alla guerra, dovranno far la guardia, dovranno andare a caccia come cani e in tutto, per quanto è possibile, prestarsi in piena eguaglianza coi maschi, concedi insomma che le donne si comporteranno perfettamente e non saranno in tal modo violate caratteristiche di natura femminile rispetto a natura di maschio, quelle prestazioni, si capisce, per le quali natura consente opera in comune. Concedo, disse concludendo. E io allora? Una sola cosa ci rimane da chiarire. È possibile per il genere umano questa comunanza come avviene per gli altri animali? In che modo è possibile? Mi hai prevenuto, rispondeva, formulando precisa la mia obiezione. Se si tratta della guerra, credo sia inutile farne speciale trattazione. È evidente in qual modo faranno la guerra. Come? Disse lui. Perché faranno insieme la guerra e per di più vi condurranno i figli che siano cresciuti forti ormai. Così potranno fare come i figli degli altri artefici. Osserveranno ciò che una volta divenuti adulti dovranno praticare come lavoro abituale. Ma c'è ancora un altro fatto. Oltre al vedere, potranno aiutare e prestare una quantità di servizi. Potranno insomma rendersi utili ai loro genitori. Non ti sei accorto come nelle altre parti, per esempio l'arte del vasaio, i figli continuino per molti anni a far servizi e guardino e osservino, prima di cominciare a far veramente i vasi? Certo, allora i vasai dovranno insegnare la propria arte con maggior cura che i nostri custodi la loro? Si tratta di fare in modo che i figli osservino, acquistando esperienza di quanto le singole arti richiedono. Si tratta, certo. Del resto, ogni animale combatte con maggior vigore quando sono presenti i figli. È così. Ma, Socrate, grande il pericolo in caso di sconfitta, il che può benissimo accadere in una guerra. Oltre ai genitori, potrebbero essere esposti allo sterminio anche i figli, e la città non potrà più riprendersi. Hai ragione, dissi. Ma intanto, credi davvero che prima preoccupazione sia non fargli affrontare per nessun modo un pericolo? No. Senti, allora. Dato che il pericolo pur si deve affrontarlo, sarà bene affrontarlo, a condizione che questi giovani riescano migliori se l'impresa riesce bene. Certo, è chiaro, ma credi che il vantaggio sia trascurabile? Che non valga la pena di affrontare un pericolo, pur d'ottenere che fin dalla prima età questi figli destinati a diventare uomini di guerra possano seguire attentamente belliche vicende? No, anzi, importa assai in rapporto a quanto dici. Dovremo dunque ottenere questo risultato. Dare ai ragazzi esperienza diretta della guerra e far pure in modo che il tutto si attui in condizione di sicurezza, e così ogni cosa andrà bene, o no? Sì. Intanto, ripresi, i genitori, per quanto può fare un uomo, non saranno privi di esperienza, bensì conosceranno bene le singole spedizioni, quali pericolose e quali no, par naturale. Quindi alle prime li condurranno, all'altre no. Giusto. E faranno in modo che vi siano, quali ufficiali, persone di grande valore, persone che per esperienza e per età sappiano fare il loro dovere e nello stesso tempo adatti a prendersi cura dei giovani. Sì, va bene. Certo, è un fatto. Tante cose possono avvenire contrariamente a quanto ci si aspetta, purtroppo. In considerazione di ciò, mio caro, conviene che abbiano le ali fin dai primi anni questi nostri fanciulli. Così, se è necessario, alati potranno fuggire. Come dici? Chiedeva. Bisogna che, fin dall'età più tenera, replicai, sappiano montare a cavallo. Quando poi li avremo istruiti nell'equitazione, potremo allora condurli a vedere il combattimento, su cavalli non certo impetuosi e ardenti o bellicosi, ma su cavalli veloci il più possibili e docili al morso. In tal modo potranno osservare ciò che un giorno dovranno fare loro stessi, e saranno pur sempre riportati in salvo nel modo più sicuro, se ce ne sarà bisogno, sotto la guida degli ufficiali più avanzati in età. Mi pare che tu abbia ragione, concluse. E in quanto alla guerra, quale secondo te sarà la condotta dei soldati? Reciprocamente fra loro il rapporto ai nemici? È giusta o no la seguente disposizione? Dimmi quale sia, domandava. Chi ha abbandonato il posto o ha buttato le armi o ha fatto qualche cosa di simile, non c'è dubbio, bisogna degradarlo e farlo diventare per viltà artigiano o contadino. Sicuro. E chi si fa prendere vivo dai nemici, bisogna lasciarlo in mano al nemico stesso. Potrà fare della preda quell'uso che crede. Sì, certo. E invece il soldato che si è comportato da valoroso e si è coperto di gloria, intanto i giovanetti fanciulli che tengono dietro l'esercito lo incoroneranno a turno sul campo, di fronte a tutti. Non credi? Sì, certo. E senti un po', non dovranno tutti tendere verso lui la destra in segno d'onore? Anche questo. Ma ciò che segue, mi pare, non l'approvi ugualmente. Cosa? Amore a tutti darà, e da tutti amore avrà. Oh, ma questo sì, e aggiungo alla legge questo precetto, per tutto il tempo della spedizione. Nessuno da cui egli voglia amore potrà in qualche modo negarsi a lui. Così, se il guerriero sarà innamorato di qualcuno, donna o uomo, si mostrerà più ardimentoso nel combattimento per riportare il premio. Bene, Del resto, abbiamo detto, a chi è valoroso si offriranno combinazioni di nozze più frequenti che agli altri. In confronto agli altri cittadini sarà preferito dai magistrati e scelto per partecipare alle feste nuziali. Così più numerosi figli da lui nasceranno. Sì, abbiamo già concluso su questo, rispondeva. Anzi, se leggi Omero, è giusto onorare in questo modo i più valorosi tra i giovani. Omero infatti racconta che Aiace, durante la guerra, è stato onorato con un tergo completo di bove. Il poeta riteneva che questo fosse il modo giusto di ricompensare chi fosse sul fiore della vita e fosse un prode. Così, insieme al tributo d'onore, si ha modo ad aumentare la forza fisica dell'eroe. Giustissimo. Ascolteremo dunque in ciò almeno Omero, ripresi. Nei sacrifici, infatti, in altre ricorrenze, tributeremo onore ai valorosi, in quanto hanno dato prova di valore, con inni e con le onoranze di cui si diceva. Ma daremo inoltre seggio e vivande, tazze più numerose, e otterremo non solo il modo di tributare onore, ma anche di accrescere la forza dei nostri prodi, siano donne o uomini. Hai ragione, rispondeva. Va bene. E indubbiamente affermeremo che tra i caduti in una spedizione chi muore glorioso nell'armi appartiene alla stirpe d'oro. Oh, certo, ma non vorremmo forse dare ascolto ad Esiodo? Quando gli uomini di questa stirpe giungono al termine di vita? Santi demoni indigeni questi saranno, da mali saldi proteggitori, custodi dell'uomo mortale. Certo, daremo ascolto. Faremo quindi domanda al Dio sul modo opportuno di dar sepoltura privilegiata a uomini divini ed eroici, e li comporremo nella tomba secondo il modo che il Dio ci vorrà indicare. E perché non dovremo far questo? Per tutto il tempo futuro ne venereremo le sepolture e tributeremo onore come a sepolture d'uomini davvero divini, e faremo lo stesso quando giunga al fine di morte per vecchiezza o per altra ragione un personaggio che durante la vita si sia segnalato per virtù singolari. Certo, è giusto, concluse. E senti un po', nelle relazioni con i nemici, come si comporteranno i soldati? In che senso? Intanto la schiavitù. Ti pare una cosa giusta che i greci riducano schiave città greche? Non sarebbe più giusto fare in modo che, per quanto è possibile, nemmeno le altre nazioni intraprendessero un tentativo del genere? O piuttosto abituarle al pensiero che nemmeno si debbano toccare i greci, ottimo espediente per impedire l'asservimento da parte del barbaro? Oh, importantissimo questo criterio. Allora non è opportuno possedere quale servo un greco, noi intanto per conto nostro, e si deve dar consiglio agli altri greci nello stesso senso. Non v'è dubbio, rispondeva. Oh, se si volgessero contro il barbaro e se si evitassero le guerre fratricide. Senti un po', spogliare dopo la vittoria i morti, fatta eccezione per le armi, ti par che vada bene? Si risolve in una scusa per i vili che vogliono evitare la linea di combattimento. Fanno credere di compiere cosa assai importante, curvi sui corpi dei caduti, e intanto molti eserciti per questa forma di rapina andarono incontro a serie conseguenze. Purtroppo. Del resto è cosa illiberale, bassa e avida a spogliare un caduto. Dimostra un carattere piccino e donnesco. Perché ritener nemico il corpo d'un morto quando ormai ciò che era nemico è già volato via e non è rimasto se non lo strumento con cui faceva la guerra? Non credi tu che chi fa così si comporta al modo di quei cani che s'arrabbiano coi sassi che li colpiscono senza curarsi di chi gli li sta scagliando? Certamente, non c'è differenza. Rinunceremo dunque a spogliare i morti, a questo costume di impedirne la sepoltura. Si capisce, rispondeva. E neppure porteremo nei templi le armi con l'intenzione di appenderle ai muri, meno ancora poi le armi greche, se ci sta a cuore un senso di benevolenza verso gli altri greci. Ma più ci dovrà trattenere un pensiero di paura. Portare in un tempio le armi di gente a noi vicina per stirpe costituisce una contaminazione, naturalmente a meno che il Dio non disponga in modo diverso. Giustissimo, concludeva. E per il saccheggio di terra ellenica, per gli incendi di edifici, come dovranno comportarsi i nostri soldati? Oh, mi piacerebbe, disse, udir da te la tua opinione. Mi sembra che non convenga fare né l'una né l'altra cosa, soltanto prendere il raccolto dell'anno. E vuoi che te ne dica il motivo? Sì, certo. Mi pare che come esistono due nomi distinti, sedizione e guerra, così esistano anche due fatti reali che sono due cose del tutto distinte. E intendo che di questi due fatti reali, l'uno si rapporta a ciò che è domestico e affine, l'altro è rivolto a chi è estraneo e non ha parentela alcuna. Per l'inimicizia familiare si adopera l'appellativo di sedizione, per l'inimicizia estranea di guerra. Va assai bene quanto stai dicendo. e sta attento cosa ti pare di quest'altro principio. Affermo che la stirpe ellenica appartiene a unica famiglia e proviene da unica origine, è estranea infatti ai barbari e non ha con questi affinità di nessun genere. Sì, e va bene, rispondeva. Concluderemo dunque che greci fanno guerra coi barbari e barbari coi greci, combattendo fra loro, nemici come sono per natura, quindi quest'inimicizia è una guerra vera e propria. Ma anche i greci purtroppo combattono con greci, e quando si arriva a ciò, io dico che gli avversari per natura sono amici, e che in tale condizione tutta la Grecia ne sente conseguenze dannose, e si trova coinvolta in una sedizione. Quest'inimicizia, appunto, si deve chiamare sedizione. Sono d'accordo con te in questo giudizio. Osserva allora, continuai, il caso della sedizione, secondo i principi da noi ammessi. Quando sorge sedizione, la città rimane divisa. Se le due fazioni saccheggiano i campi degli avversari e incendiano le case, questa sedizione è giudicata da tutti funesta e tremenda. L'una e l'altra parte dimostra ben scarso senso di carità patria, perché, in caso contrario, non avrebbero avuto ardimento di disertare quella che è madre nutrice. Normalmente si ritiene che i vittoriosi si impadroniscano soltanto del raccolto dei vinti. Deve essere infatti ferma opinione che un giorno regnerà di nuovo la concordia e che non per sempre faranno la guerra. Senza dubbio, questo modo di comportarsi è assai più mite che nell'altro caso. E senti un po', dissi, non sarà greca la città che stai fondando? Deve esserlo. E non ne dovranno essere buoni e miti i cittadini? Non c'è dubbio. E non dovranno amare gli altri greci? E non giudicheranno la Grecia propria terra? Non avranno comune parte, come gli altri, dei templi? Non c'è dubbio. E le divergenze verso gli altri greci, che sono della stessa famiglia, non le stimeranno sedizioni? Nemmeno guerre, le diranno. Eh no, quelle divergenze avranno dunque in vista una finale conciliazione. Certo, cercheranno dunque con spirito conciliante di portarli a una visione di maggior salvezza, e ogni azione non si risolverà in schiavitù e rovina. Non si tratta in realtà di veri nemici, e il vero scopo è renderli migliori. Così, rispondeva. E allora, greci come sono, non metteranno a sacco la Grecia, non bruceranno gli edifici, non affermeranno che nei singoli stati tutti sono nemici, uomini, donne, bimbi, bensì che pochi sono i nemici, quelli che sono causa del dissidio, e per tutti questi motivi non vorranno giungere sino al saccheggio, memori che in quel luogo vi sono molti amici, per certo non devasteranno le case. Al contrario, spingeranno divergenze e discordie esclusivamente fino al punto in cui i colpevoli siano costretti a ricevere giusta punizione per opera di chi è innocente e soffre le conseguenze della situazione. Credo che i nostri cittadini debbano trattare con gli avversari secondo questi criteri. Se si tratta invece di barbari, si comporteranno nel modo con cui i greci reciprocamente trattano attualmente. In conclusione, dobbiamo stabilire anche questa legge per i custodi, non saccheggiare la terra e non incendiare gli edifici. La possiamo, sì, stabilire, esclamò. Così va bene, e vanno bene anche le precedenti conclusioni. In ogni modo, ho l'impressione, Socrate, che se ti si desse libertà di procedere per questa via, non ti ricorderesti più dell'argomento che poco fa, per trattare di queste conseguenze più lontane, hai lasciato da parte. E l'argomento era: se è possibile che questa città pur sorga, e come ciò sia possibile. È un fatto, vedi, ammesso che la città possa sorgere, tutto vi andrebbe molto bene così. E potrei aggiungere altri particolari che mi stai trascurando. Per esempio, nella guerra i custodi si comporteranno assai bene, in quanto vivono l'uno con l'altro sempre insieme. Tutti si conoscono, tutti si chiamano coi nomi di fratelli, padri, figli. Ammesso poi che le donne combattessero insieme nella medesima schiera o anche alle spalle dell'esercito, soltanto come truppe di riserva per far paura al nemico nel caso di necessità estreme, sono perfettamente convinto che anche per tal modo quei guerrieri sarebbero assolutamente invincibili. E vedo bene i vantaggi che derivano da questo ordinamento, anche nel tempo di pace. Li vedo, anche se tralasciati nel discorso. Ma ti prego, non trattare oltre la cosa in questo senso. Pensa che io sono d'accordo in tutto. Ci sarà tutto quello che dice, vi saranno altri innumerevoli benefici, ammesso sempre che questa Costituzione abbia possibilità di affermarsi. Ma, vedi, proprio su questo punto dobbiamo cercare di persuadere noi stessi che cioè la cosa è possibile, e persuaderci anche in qual senso la cosa è possibile. Tutto il resto lasciamolo andare. Allora io, hai fatto un'irruzione vera e propria nel mio discorso e non mi consenti di respirare un momento. Forse, del resto, Non sai nemmeno con quanta fatica sono riuscito a sfuggire l'impeto di due tremendi marosi, e ora tu mi porti vicino al più grande e al più periglioso, la terza, la terribile ondata. Quando ne avrei potuto scorgere la grandezza e ne potrai udire il fragore, oh, allora mi compatirei certo e troverai giusto che io abbia tanto esitato e abbia avuto un senso quasi di paura ad esporre argomento così contrario alla comune opinione e ad intraprenderne l'analisi. Quanto più ti indugi, continuava, in queste dichiarazioni, tanto meno ci sentiremo di lasciarti omettere in silenzio il modo secondo il quale questa Costituzione avrà possibilità di realizzarsi. Ma parla, via, e non tardare. Dunque, seguitai, bisogna richiamare alla vostra memoria la seguente cosa. La nostra ricerca era rivolta alla giustizia e così pure all'ingiustizia. Si voleva sapere che cosa è l'una e l'altra. E la discussione era pervenuta a questo punto, precisamente. Certo, ma perché questo? Rispondeva. Nulla di speciale, ma se trovassimo cos'è la giustizia, dovremmo ritenere che l'uomo giusto non presenti differenza alcuna da quella. Dovrà questo giusto esserne in ogni modo la copia esatta, o non ci accontenteremo piuttosto che si avvicini quanto più è possibile a lei e che in confronto agli altri ne abbia una partecipazione meno difettiva? Così, rispondeva, ci accontenteremo di questo. E io, soltanto come tipo esemplare dunque, cercavamo che cosa è la giustizia nella pura oggettività, e così pure l'uomo completamente giusto, ammessane poi l'esistenza, si cercava quali sarebbero state le caratteristiche, e reciprocamente poi si indagava sull'ingiustizia e sull'uomo del tutto ingiusto. Si voleva, insomma, tenere lo sguardo fisso a questo individuo giusto e ingiusto, allo scopo di vedere quale ne fosse la condizione rispetto alla felicità e al suo contrario. In tal modo saremmo stati necessariamente condotti ad ammettere che chi si fa simile all'uno o all'altro, quanto più è possibile, sarebbe destinato ad averne pure sorte del tutto simile. Ma non era affatto nostra meta dimostrare che quegli esemplari hanno possibilità d'attuazione integrale nella realtà. Su questo rispondeva, hai perfettamente ragione. E crederesti che sarebbe meno bravo un pittore che, pur avendo dipinto col suo pennello il tipo esemplare quale potrebbe essere in un uomo di bellezza perfetta, e pur avendone espressa a sufficienza nella pittura ogni particolare, non avesse poi a dimostrare anche possibile che un simile uomo avesse la vita? Non sarebbe meno bravo, no? Senti allora, noi pure stiamo figurando con parola il tipo esemplare di una città perfetta, non credi? Certo, e ti pare che siano meno esatte le nostre conclusioni per questo motivo, che non ci riesce di dimostrare possibile la fondazione nella realtà di una città così come l'abbiamo descritta? Affatto. La verità dunque, ripresi, è questa. In ogni modo, se per farti favore dovremmo pensare anche a questo e dimostrare in qual modo e sotto quale aspetto la nostra riforma sarebbe possibile, allora una seconda volta mi devi fare la stessa dichiarazione di poco fa. Quale? È possibile portare alla realtà una cosa nella stessa misura con cui la parola la viene delineando? O non piuttosto al contrario? È naturale che l'operazione invece attinga meno della parola alla verità? Non certo tutti saranno d'accordo, ma tu concedi che sia così o no? Concedo, rispondeva. Non mi devi dunque costringere a dimostrare che le nostre conclusioni, ricavate per mezzo di parola, anche possano sussistere nella realtà. Bensì avremo già scoperto, devi pure ammetterlo, come me ne davi incarico, che sarebbero suscettive di realizzazione, qualora ci riuscisse di organizzare una sola città nel modo più conforme possibile al tipo ideale da noi scoperto. Non sarai contento se ottieni questo risultato? Io per me ne sarei contento. Io pure, diceva. Allora, se è così, dobbiamo cercare e mostrare quale causa oggi conduca a rovina gli stati e impedisca che siano retti nel modo da noi stabilito. Ricercare inoltre come uno stato qualunque, introducendo una riforma la più piccola possibile, potrebbe trasformarsi nella costituzione del nostro tipo. E dovrà essere una riforma parziale, investirà una sola parte o due al massimo, o in tutti i casi quante meno parti è possibile, e sarà di un'entità parimenti la minore possibile. Hai ragione. Avremo modo, credo, di dimostrare una cosa. Se si procede a una sola riforma, la trasformazione avverrà senz'altro. Certo, non piccola né facile, possibile tuttavia. Quale? Eccomi dunque, dissi, sono proprio al punto che poco fa confrontavo a perigliosa ondata e dovrò intanto farne esposizione. mi sommerga pure il ridicolo interamente e la vergogna. Sta ben attento a quanto ti debbo dire. Parla. E allora io, se non verrà il giorno in cui i filosofi saranno re nella città, o se perlomeno quelli che si dicono ora re potenti nello Stato non si volgeranno generosamente e sufficientemente a questo amoroso uso di sapienza, se potenza politica e filosofia non arriveranno a cospirare in uno, se non interverrà risoluto divieto d'accedere ai pubblici uffici per chi separatamente come oggi all'una o all'altra a filosofia o a politica si dedica, oh, non vi sarà, caro Glaucone mio, riposo alcuno in tanta sciagura, né per gli stati, né, credo, per l'intero umano genere. D'altra parte, nemmeno la Costituzione, che con parola abbiamo esplicato, nemmeno quella potrà, per quanto le è consentito, ingenerarsi e vedere la luce del sole. Ma è proprio questo pensiero che mi dà dubbio e incertezza grande. Vedo quanto contraria alla comune opinione saranno le parole mie. D'altra parte, ben pochi possono comprendere che nessun'altra Costituzione può assicurare felicità, tanto agli stati quanto agli individui. E lui, oh Socrate, ti sei lasciato sfuggire frasi e parole di tanta gravità che sta pur sicuro, devi attenderti che molti, e non certo i meno valorosi, getteranno le vesti, leggeri e spediti, afferrando le armi a portata di mano con tutte le forze di corsa, cercheranno indubbiamente di farti comprendere come sono decisi ad agire. E se con la parola non ti difenderai salvandoti da quell'assalto, pienamente deriso, ti troverai davvero a mal partito. E io, non sei appunto tu la causa di tutto questo trambusto? Sì, rispondeva, e faccio bene a far così, ma non intendo in ogni caso lasciarti solo. Ti difenderò anzi per quanto posso, e posso farlo con la mia benevolenza e con le mie esortazioni. Forse anche mi riuscirà di dar risposta alle tue domande con maggiore esattezza di qualche altro. Sta pur sicuro dunque che un difensore ce l'hai, e cerca quindi di dimostrare agli increduli che la cosa sta veramente come dici. Si tratta dunque di tentar la prova, replicai, dal momento che tu mi offri sì preziosa alleanza. Mi pare intanto necessario, seppur dobbiamo sfuggire in qualche maniera ai nostri assalitori, definire per conto di questi avversari quale sia secondo noi il filosofo al quale dovrebbe venire direzione e dominio dello Stato. Messi in luce questi principi, si potrà pensare poi a una difesa e si potrà dimostrare che agli amanti di sapienza soli convengono le due cose, filosofia e governo della città. Gli altri uomini, invece, non debbono nemmeno rivolgere a così alta meta il pensiero, debbono seguire chi li guida. Effettivamente, rispondeva, sarebbe il momento di procedere a una chiarificazione. Su via, dunque, vieni dietro a me da questa parte, vedremo se in qualche modo riesco ad essere una buona guida. Via dunque, mi disse. E cominciai. Allora si tratta di richiamare alla tua memoria un certo fatto, oppure forse lo ricordi da te. Chi ama qualche cosa deve amare, non certo un particolare aspetto e un altro invece no, ma tutto intero l'oggetto amato. Devi rinfrescarmi un po' la memoria, rispondeva, non ricordo molto bene. Oh, continuai, caro Glaucone, queste parole potranno convenire ad altri. Un uomo esperto in scienza d'amore non deve dimenticare che, quanti sono nel fiore della vita, tutti mordono e tormentano l'uomo amico di giovinezza e versato in discipline d'amore. Tutti davvero gli appaiono degni di interesse e d'amoroso riguardo. Non è forse questo il vostro contegno di fronte ai giovinetti belli? Ecco, ce n'è uno che ha il naso incurvato, e voi troverete il modo di lodarlo. È grazioso. Un altro ha il naso aquilino, e voi dite che è segno di regalità. Se vi è uno in mezzo fra l'uno e l'altro difetto, è ben proporzionato. Virili d'aspetto, diventano ragazzi di carnagione bruna. I bianchi, invece, eccoli, sono figli di dei. E quell'appellativo, ha il colore e il pallore del miele. Certo, l'ha scoperto qualche innamorato che cercava di adattarsi e trovava bello il pallore in una creatura. Gli bastava che fosse nel fiore degli anni. A farla breve, trovate tutte le scuse, inventate ogni formula, ogni parola, in modo che tutti nel fiore della vita finiscano per sembrarvi forniti di qualche pregio. Se vuoi, rispondeva, attribuirmi ciò che fanno gli innamorati, ebbene, vada pure. Accetto per l'interesse che desta la discussione. Senti allora, ripresi, non vedi che si comportano allo stesso modo quanti amano il vino? Ogni scusa è buona per far accoglienza festosa a qualunque vino. Eh già. E gli ambiziosi? Credo che lo potrai vedere tu pure. Non riescono a generare in capo. Basta il grado di caporale. e se non riescono a ricevere l'omaggio da persone superiori più ragguardevoli, si contentano di chi è inferiore e di chi val meno. Tanto è grande questa sete d'un segno di distinzione in mezzo agli altri. Non c'è dubbio. E su questo mi devi dire sì o no. Non è vero che, se un uomo è appassionato per qualche cosa, dovrà esserlo per qualunque aspetto sotto il quale gli si può presentare la cosa. O invece desidera soltanto un aspetto e un altro no. Qualunque aspetto. E allora il filosofo è avido di sapienza nella sua totalità. Non questa sì, l'altra no, ma tutta. Vero. In conseguenza, chi fa il difficile su quanto deve apprendere, in modo particolare se si tratta di un giovane che non sappia ancora darsi ragione di quello che serve e di quello che non serve, non diremo mai che è amante di cognizione o che è filosofo. Alla stessa guisa, chi fa differenze sui cibi, affermiamo senz'altro che non ha fame e che non è desideroso di cibo. Certo, non amante di cibo, ma uomo avverso al cibo. Sì, essa avrebbe ragione. Invece, chi facilmente è pronto a gustare ogni forma di cognizione e lei lieto s'accinge allo studio e non è mai sazio, costui sì, con piena giustizia lo chiameremo filosofo, non credi? E Glaucone rispondeva: oh, ma saranno senza numero questi uomini e tutta gente assai strana, e penso che allora si dovrebbero annoverare qui le persone avide di spettacoli con la scusa di imparare qualche cosa. Vi sono poi gli assidui a conferenze e a letture, gente troppo eccentrica se li vogliamo porre tra i filosofi. Questi bei tipi non ne vogliono sapere di partecipare a una discussione spirituale come questa o a un trattenimento un po' serio, ma come se avessero noleggiato le orecchie per ascoltare tutte intere le produzioni drammatiche, eccoli di corsa a presenziare alle dionisiache, e non lasciano passare né le dionisiache urbane né quelle campestri e simile gente, altri del genere, avidi di apprendere questa roba. Questi cultori d'arti minute e infime li chiameremo noi filosofi? Eh no, continuai, bensì sono gente che assomiglia ai filosofi. E quali sono, secondo te, i veri filosofi? Quelli, replicai, amanti di contemplare la verità. Già, questo va bene, rispondeva, ma in che senso lo dici? È una cosa che non spiegherei certo con tanta facilità a un altro, ma credo che tu mi vorrai concedere una certa cosa. Quale? Siccome la bellezza è contraria alla bruttezza, si tratta di due entità diverse. Come no? E sono due, ciascuna un'unità. Anche questo. E per la giustizia e l'ingiustizia, bontà, cattiveria, in genere per tutte le specie vale la stessa cosa. Ciascuna è un singolo e unico ente. Invece, data la partecipazione alle azioni, alle cose reali, e data anche la partecipazione che le singole specie reciprocamente hanno, ciascuna appare in luoghi diversi e ciascuna poi molteplice. Hai ragione, rispondeva. È questo, conclusi, il criterio secondo il quale io distingo gli uomini di cui ora dicevi. Amanti di spettacoli, amici delle arti, uomini che hanno come fine un'attività qualsiasi, diversi da quelli sui quali ora si discute, che unici si potrebbero dir filosofi, cioè amanti di sapienza. Come intendi? Vedi, gli uomini amanti di spettacoli, quegli assidui di cui parlavamo, accolgono amorosamente le belle voci, i colori, le figure e in genere tutto ciò che le arti producono per mezzo di vari colori e figure. Al contrario, non sono capaci di vedere col pensiero e di accogliere amorosamente il bello nella pura oggettività e la costituzione della sua ideale natura. È proprio così. Quelli invece che sono capaci di pervenire all'idea del bello nella sua pura oggettività, che sono capaci di vederla nella sua impartecipata essenza, non saranno forse in numero scarso? Purtroppo. Chi ritiene che vi siano cose belle, ma che non ci sia la bellezza nella pura oggettività dell'essere? Chi non è in grado di tenere dietro un maestro che potrebbe guidarlo verso la cognizione di quella? Ebbene, ti pare che costui trascorra l'esistenza tra le nebbie di un sogno o desto nella pienezza della vita? Sta un po' attento. Il sognare, in fondo, non è cosa diversa da quanto ti dirò. Durante il sonno, oppure anche desti, una cosa che assomiglia a un'altra, la si ritiene non già similiante, bensì una stessa identica cosa con ciò cui la cosa assomiglia. Oh, ma, disse lui, penso che costui veramente sognerebbe. E senti un po', si può fare al caso contrario. C'è chi ritiene che la bellezza nella pura oggettività veramente esista, anzi si può arrivare a vederla questa bellezza, e così pure a vedere gli individui e le cose che di essa partecipano. pur senza ritenere per errore che le cose partecipanti siano la bellezza, né d'altra parte che la bellezza sia queste cose partecipanti. E ti pare che la vita di costui trascorra in un sogno o in condizione di veglia? Oh, certo, di veglia. E allora si potrà dire giustamente che il pensiero di quest'uomo trova un atto consummante di conoscenza, ritenendo che compiutamente gli conosca. Quello dell'altro è invece opinione, in quanto soltanto può opinare. Non c'è dubbio. Supponi ora che costui s'arrabbiasse. Questi di cui si disse che è in possesso d'opinione, non di conoscenza consummante. Supponi che ponesse in dubbio le nostre affermazioni. Avremo noi modo di rivolgergli pacata parola? Il modo di persuaderlo con calma, senza fargli capire che non sono troppo sane le facoltà sue? Certo, bisognerebbe trovarlo questo modo. Sta attento allora a quanto gli potremmo dire. O vuoi piuttosto che chiediamo a lui stesso? Gli diremo che, se qualche cosa egli conosce, non ne proviamo certo invidia, bensì ci farebbe molto piacere vedere persona che qualche cosa conosce. Insomma, amico mio, mi devi dire questo solo. Chi conosce? Conosce qualche cosa o non conosce nulla? Fai il piacere, dammi una risposta invece sua. Ammetterò, rispondeva, che conosce qualche cosa. Forse una cosa che è o una cosa che non è? Una cosa che è? Come vuoi che si conosca una cosa che non è? Basta così. E anche se si dovesse da qualche altro punto di vista considerare il fatto, è ammesso che la pienezza dell'essere è anche pienamente conoscibile. La carenza completa dell'essere è pure completamente inconoscibile. Basta così. E sia pure. E allora, se qualche cosa si trova nello stesso tempo, nella condizione d'essere e di non essere, sarà intermedia tra la purezza assoluta dell'essere e la carenza dell'essere completa. Intermedia. Allora, la conoscenza si riferisce all'essere, la conoscenza nulla necessariamente al non essere. Per la condizione poi intermedia, bisognerà, si capisce, anche cercare una condizione intermedia tra scienza e conoscenza nulla, ammettendo sempre che ci sia questa condizione intermedia, certamente. E non dobbiamo affermare che l'opinione è qualche cosa, come no? E l'opinione ha forse un suo peculiare potere uguale alla scienza o un potere diverso? Diverso? Bene, l'opinione è disposta dunque per un suo fine, a un altro invece la scienza, ciascuna ha una sua potenza particolare. Così, e allora scienza è preordinata naturalmente a ciò che è. Si tratta insomma di conoscere come sia l'essere, ma piuttosto direi necessario distinguere nel seguente modo. Come? Chiamiamo potenze quegli enti con cui possiamo quanto è il nostro potere, così pure ogni altra cosa che abbia un potere. Per esempio, affermo che vista e udito appartengono al novero delle potenze, seppur comprendi a quale categoria voglio accennare. Sì, capisco, rispondeva. Attento adesso. In una singola potenza non vedo né colore, né figura, né altro simile accidente che c'è in altre innumerevoli cose. Guardando appunto questi accidenti, io distingo le cose, ritenendo che le une siano di un tipo, le altre di un altro. Trattandosi invece di una potenza, io guardo solo qual è il suo fine e ciò che essa produce. Anzi, precisamente con questo criterio, mi riesce di dare un nome a ciascuna di queste potenze. E una potenza disposta allo stesso fine, che produce la stessa operazione, la chiamo uguale a un'altra. Un'altra, invece, rivolta ad altro fine, e che altra operazione produce, la chiamo diversa. E tu cosa fai? Così, rispondeva. E allora, di nuovo, gli dissi, attento, mio caro. Scienza, la ritieni una potenza, o in quale categoria la riponi? Nel genere delle potenze, rispose, e di tutte la più vigorosa. E opinione, la riporteremo alle potenze o ad altra categoria? Eh no, rispondeva, non appartiene ad altra categoria. Ciò con cui abbiamo potenza d'opinare non è altro se non opinione. Ma poco fa ammettevi che opinione e scienza non sono la stessa cosa. E come vorresti che fossero? Ciò che d'errore è suscettivo e ciò che non è suscettivo saranno la stessa cosa? Benissimo, ripresi, è chiaro, insomma, possiamo dire di aver concluso. Altro è opinione e altro è scienza. Sì, ciascuna dunque di queste due potenze è naturalmente disposta ad altra meta, con facoltà proprie e diverse, necessariamente. La scienza dunque, è chiaro, sarà disposta naturalmente per cogliere ciò che è, in modo da conoscere come sia l'essere. Sì, opinione invece, diciamo, è naturalmente contenta ad opinare. Sì, e ti pare che opini il medesimo oggetto cui scienza conosce? e saranno forse una medesima cosa, un argomento opinabile, un argomento conoscibile, o non è forse impossibile conclusione? Impossibile, rispondeva, date le premesse. Abbiamo pure ammesso che una potenza è naturalmente disposta a un fine, un'altra a un altro, particolarmente poi che l'una e l'altra, opinione e scienza, sono potenze, ma che ciascuna ha caratteristica diversa, come stiamo affermando. Insomma, da tutto ciò non è possibile ammettere che conoscibile per scienza e conoscibile per opinione siano la stessa cosa. E non è vero forse che, se l'essere è conoscibile per scienza, allora l'opinabile è cosa diversa dall'essere? Diversa. E ti pare che l'opinione conosca il non essere? O, piuttosto, non è forse impossibile anche opinare il non essere? Rifletti un po'. Non è vero che chi formula un'opinione porta la sua opinione verso qualche cosa? Ti pare possibile, insomma, formulare un'opinione e non formular niente? Impossibile. Insomma, chi concepisce un'opinione, qualche cosa opina. Sì, ma il non essere si può con piena ragione chiamare completo nulla, non certo qualche cosa, senza dubbio. E al non essere abbiamo attribuito la conoscenza nulla. L'essere invece costituisce atto consummante di conoscenza. Giusto, rispondeva. L'opinione dunque non è rivolta all'essere, ma nemmeno al non essere. No, e allora opinione non sarà né conoscenza nulla né consummata conoscenza. Non pare. E l'opinione supera forse l'una e l'altra? Supera forse per chiarezza la conoscenza consummata o per oscurità la conoscenza nulla? Nell'una nell'altra ipotesi. Ma allora, gli dissi, ti sembra che opinione sia più oscura di conoscenza consummata, invece più luminosa di conoscenza nulla? Indubbiamente. È dunque compresa fra quei due estremi? Sì. Opinione dunque è potenza intermedia fra queste due estreme. Certo. E non abbiamo detto precedentemente che, se ne apparisse cosa intermedia tra l'essere e il non essere, verrebbe a trovarsi pure intermedia tra l'essere nella sua assoluta purezza e il totale non essere? Si diceva che non vi sarebbe stata in questa cosa né scienza consummante né ignoranza, bensì qualche cosa intermedia tra scienza e ignoranza. Giusto. Ecco, ora ci si è manifestata, intermedia fra questi due estremi, ciò che chiamiamo opinione. Sì, allora ci rimane una sola cosa, trover cioè cosa sia questo fatto che partecipa dell'una e dell'altra condizione, dell'essere cioè e del non essere nella loro purezza. Ciò, in una parola, che potrebbe essere chiamato il nell'uno nell'altro vero e proprio. Così, nel caso in cui questo fatto ci riesca chiaro, lo potremo giustamente attribuire all'opinione. Ai due estremi daremo dunque per meta i fatti estremi, alle condizioni intermedie i fatti intermedi. Non è così? Così. Ciò stabilito, mi si dica, continuerò allora, e mi si risponda. E intendo rivolgermi a quella brava persona di poco fa. Costui crede che non esista affatto il bello nella pura oggettività dell'essere, una cotale idea di bellezza eternamente immutabile e a se stessa uguale. Crede invece che ci siano innumeri le cose belle. Oh, intendo quell'amante di spettacoli che non ne vuol saper di sentire che ci sia la bellezza, la giustizia e così via. Costui, insomma, stia a sentire. Eccoti, ci sono, ottimo amico mio, innumeri le cose belle. Ebbene, vi è forse qualcuna che non apparirà brutta? Ecco, anche le cose giuste. Vi è qualcuna che non appaia ingiusta? E le cose sante, empie? Sì, anzi è necessario che si appaiano belle e brutte, e gli altri casi lo stesso. E senti, le innumeri quantità doppie possono apparire per nulla meno metà che doppie? Sì, per nulla meno. E le cose grandi e piccole, leggeri e pesanti, credi proprio che si possono chiamare con quel nome che hanno, piuttosto che col loro contrario? Un nome singolo no, in quanto, disse, ciascuna parteciperà sempre piuttosto di ambedue i contrari. E cosa ti pare allora? Ciascuna di queste innumeri cose è, o piuttosto non è, ciò che noi affermiamo che ciascuna sia? Oh, ma questa condizione, rispondeva, assomiglia assai ai giochi a doppio senso che s'adoperano nei banchetti, così pure all'indovinello dei bimbi circa l'eunuco e circa il colpo dato al pipistrello, con la quale formula vogliono si indovini come e dove l'eunuco ha colpito. Lo stesso doppio senso si può mettere avanti a proposito di queste innumeri cose, e non è possibile con sicurezza affermare nessuna soluzione, essere o non essere. E si può ammettere che queste cose siano contemporaneamente due contrari, come pure nell'uno nell'altro. Cosa vuoi fare? Continuai. Certo, non c'è risoluzione migliore di mettere queste cose in posizione intermedia, fra l'essere e il non essere. È un fatto. su queste cose non s'aduna tenebra più grande di quella del non essere, quasi che vi si potesse trovare una somma di non essere maggiore, né d'altra parte nemmeno luce più viva di quella dell'essere, come se vi si potesse trovare una quantità maggiore di essere. Oh, è proprio vero, rispondeva. Ma allora abbiamo già trovato. Par giusto che quante cose la gente ritiene comunemente belle o fornite d'altra qualità, cose che sono in numeri, tutte in certo qual modo s'aggirano in un mondo intermedio tra quello del non essere e quello dell'essere nella sua purezza assoluta. Abbiamo ormai trovato. Eravamo d'accordo in ogni modo che, se fosse stata scoperta una simile cosa, l'avremmo dovuta chiamare opinabile e non compiutamente conoscibile. Ciò che s'aggira infatti vagante nella zona intermedia è concepibile con la facoltà intermedia. Già, abbiamo ammesso. E allora, quanti vedono in numeri cose belle e non contemplano bellezza nella sua pura oggettività, non essendo nemmeno in grado di tener dietro a chi conduce verso quella, così pure in numeri cose giuste contemplano, ma non giustizia nella sua oggettività, e così avanti allo stesso modo. Insomma, affermeremo che tutti costoro hanno soltanto opinione, sempre in tutto, nulla invece compiutamente conoscono di ciò che opinano. Necessariamente, rispondeva. E invece chi contempla le singole cose nella loro pura intelligibilità, le cose eternamente immutabili e sempre uguali, non diremo che per consummante guisa conosce, non certo diremo che costui opina. Necessaria anche questa conclusione. E non diremo forse che gli uni si volgono gioiosi per amore verso ciò di cui vi è conoscenza, gli altri invece verso ciò di cui vi è opinione? O non ricordi quando si disse che questi uomini amano e contemplano voci e colori belle e altre cose del genere, invece non ammettono nemmeno che vi sia bellezza nella pura oggettività dell'idea e dell'essere, e non ammettono che bellezza abbia una sua esistenza? Ce ne ricordiamo, sì. In conclusione, sarà inesatto chiamar costoro amanti d'opinione piuttosto che amanti di scienza, cioè filosofi. E credi tu che avranno dispiacere se li chiamiamo così? Eh no, tanto più se mi vorranno ascoltare, rispondeva. Oh, non va bene adirarsi per causa della verità. Quanti invece si volgono gioiosi innamorati alle singole cose nell'oggettività del loro essere, dovremmo chiamarli filosofi, amanti cioè di scienza, non amanti d'opinione. Oh, va benissimo.